le ingiustizie di Dio. Dobbiamo fare un piccolo sforzo di onestà, dato che nessuno di noi nasce con la morale di Dio. Come ha detto il filosofo ebreo Emil Brunner, alla fine ci siamo trovati anche involontariamente a condannare l'operato di Dio. Non che si abbia qualcosa nei confronti di Dio verso il quale siamo più che riconoscenti, ma troviamo difficile essere in tutto e per tutto in sintonia con quello che ha deciso o decide anche tuttora di fare. Perché tanti bambini soffrono ingiustamente? Perché un Dio di amore come lui non ferma le incessanti guerre sparse in tutto il pianeta? Perché un Dio potente come lui tollera tanto male? Domande morali che sorgono spontanee, con quella morale che proviene da lui, dato che siamo gli unici esseri viventi fatti a sua immagine. E perché questo piccolo sforzo di umiltà possa essere incoraggiato, teniamo presente che altri credenti prima di noi e certamente migliori di noi hanno giudicato la morale di Dio. Anche tramite il profeta Ezechiele, l'Eterno Dio fa sapere al popolo di Israele che giudicherà ogni persona secondo le sue azioni e, poiché il popolo ascoltando tali parole era dissenziente, Dio risponde: «Tuttavia voi dite, la via del Signore non è giusta. Ascoltate ora, o casa di Israele, è proprio la mia via che non è giusta, o sono piuttosto le vostre vie che non sono giuste. Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e a causa di questo muore, muore per l'iniquità che ha commesso. Se invece l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, egli salverà la sua anima. Poiché ha considerato di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà. Non morirà. Tuttavia la casa di Israele dice: la via del Signore non è giusta. Sono proprio le mie vie che non sono giuste, o casa di Israele, o sono piuttosto le vostre vie che non sono giuste. Virgolette, Ezechiele 18.2529. Una reazione di Dio che fa riflettere, anche perché non dà una spiegazione morale relativa al suo comportamento, ma si limita ad affermare la propria decisione di agire in tal modo. Proprio perché questa è una inclinazione a giudicare negativamente le vie di Dio, prendiamo in esame alcuni aspetti dove la nostra morale giudica o è tentata a ritenere ingiuste alcune vie di Dio. Prenderemo in esame 1. La sovranità di Dio, 2. Il suo amore e 3. I doni disuguali di Dio. Inoltre considereremo 4. L'ordine di sterminare certe nazioni e 5. Se è giusto che gli increduli abbiano una punizione eterna. Temi più che dibattuti, ma sempre validi da affrontare. 1. La sovranità di Dio. Prima di iniziare ogni riflessione, ricordiamo che la Bibbia, quale parola di Dio, racchiude la più alta e la più pura morale che non sia mai stata predicata dagli uomini, nonché è filosofo o insegnante, che non abbia attinto da ciò che ha insegnato Gesù Cristo. Eppure, nonostante questo, la Bibbia è innumerevolmente attaccata da critiche nei riguardi della morale che vi è esposta. Una di queste riguarda certamente la sovranità di Dio. Tra le varie dichiarazioni che mettono in risalto un Dio che fa quello che vuole, quando e come gli pare, è certamente l'affermazione dell'Apostolo Paolo fatta nella lettera ai Romani: così dunque gli fa misericordia chi vuole e indurisce chi vuole. Romani 9:18. Nell'esaminare questa verità non conviene lasciarsi imbischiare dalle innumerevoli discussioni teologiche di partito, anche perché alla fine ognuno interpreta tale proposizione secondo l'indottrinamento ricevuto, perciò lasciata per ora la problematica se tale sovranità è riferita alla salvezza oppure no. Una cosa è certa: se Dio decidesse la salvezza anche solo per alcuni, cosa della quale non trovo traccia nella scrittura, quanto più è padrone di scegliere per l'uomo, in questa vita terrena, quello che vuole. Ed è su questo aspetto che rifletteremo. Anche perché, alla fine, l'uomo comune e a digiuno delle innumerevoli discussioni teologiche trova ingiustizie in Dio più che altro esaminando il succedersi degli eventi della vita. Alla fine che Dio decreti ogni evento ci riguarda solo nel suo rapporto giornaliero con noi, che poi Lui decida in se stesso prima della fondazione del mondo certe cose, fa parte del suo disegno eterno. Dunque, abbiamo detto Dio fa misericordia a chi vuole e indulisce chi vuole. E proprio questa parzialità che spinge le persone a ritenere ingiusta la morale di Dio. Perché indurire il cuore di alcuni e di altri? No? Perché l'Eterno Dio ha indurito il cuore del Faraone al tempo di Mosè, Esodo 4.21, e quello di altre persone, no? Ma il Dio dei cristiani non è forse il Dio per eccellenza che non fa favoritismi? 1 Pietro 1.17. Le domande sarebbero lecite, ma davanti ad un Dio sovrano non hanno senso. Noi possiamo anche dissentire le decisioni di un datore di lavoro, ma alla fine lui decide come crede. Bene, sia perché può fare quello che vuole, sia perché una nostra eventuale opposizione non lo tocca più di tanto, se la trova inadeguata. Ma anche le domande inopportune possono avere le loro risposte. Innanzitutto l'uomo non può comportarsi come vuole e pretendere che Dio poi faccia quello che l'uomo riterrebbe giusto. Per cui, l'indurimento volontario da parte dell'uomo porta a una conseguente sentenza di indurimento da parte di Dio, come leggiamo in 2 Tessalonicesi 2.1.0.12. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Non piace a nessuno leggere che Dio manda ad alcuni una potenza d'errore perché credano alla menzogna affinché siano giudicati, ma da come si evince dal pensiero di Paolo, questa è la conseguenza per chi non ha aperto il cuore all'amore della verità per essere salvato. Se non consideriamo l'eterna e sovrana volontà di Dio nel suo contesto, per forza di cose, arriveremo a ragionamenti assurdi o ci porremo interrogativi insensati, come Calvino, che si chiedeva perché alcuni rispondono al Vangelo e altri no, per poi concludere che ciò era perché c'era l'orribile decreto della doppia predestinazione. Che poi la sovranità di Dio sia ritenuta ingiusta da molti, lo dimostra il fatto che in moltissime persone vi sono sentimenti di ribellione per quanto accade loro nella vita. Si odia Dio perché si è rimasti vedovi troppo presto, o perché ci è morto un figlio nel modo e nel tempo da noi ritenuto ingiusto. Si trova ingiusto possedere un certo corpo, o addirittura una sola parte del corpo, come un naso troppo pronunciato, o seni scadenti, o troppo voluminosi. Conosco credenti in Cristo che trovano ingiusto dover ricoprire ruoli umili nell'assemblea che frequentano, o vivere un'esistenza priva di un livello economico pari agli altri. Segrete e corrosive ribellioni dimorano nel cuore di tanti figli di Dio, nonostante che ogni domenica cantino inni di lode, preghino con ardore e addirittura predichino il Vangelo agli altri per esortarli a vivere una vita che glorifichi Dio. Occorre guardarsi dalla radice velenosa di giudicare ingiuste le vie di Dio e dal fatto che Egli deve renderci conto di certe sue azioni. Per quanto mi riguarda, penso che sarebbe molto più saggio istruire i credenti sui decreti eterni di Dio, in merito alla vita terrena, piuttosto che sulla predestinazione a salvezza, anche perché potremmo essere giudici né competenti né idonei a pronunciarci su certi argomenti. Non che io sia senza certezze, perché sono tanto convinto che non esiste né una predestinazione né una doppia predestinazione alla salvezza, come chi è persuaso al contrario. Ma, poiché devo camminare ogni giorno con gli affanni e le problematiche di questa vita, sono conscio di essere chiamato a fare la mia parte e a lasciare a Dio che faccia la sua. Altrimenti si è costretti a trarre le medesime conclusioni di Calvino, il quale, a chi gli chiedesse le ragioni per cui Dio avesse scelto questa persona e rifiutato un'altra, rispondeva che chi poneva questa domanda cercava una risposta più grande e più elevata della stessa volontà di Dio, e a una domanda del genere non esisteva replica. Giovanni Calvino, ed GBU di Timothy George dissento fortemente a questa conclusione per due ragioni. 1. È un atto di presunzione ritenere che nessuno possa dare una risposta a un interrogativo a noi nascosto. 2. Spesso non abbiamo risposte su Dio, causa il nostro approccio teologico sbagliato. Il cattolicesimo, per esempio, ritenendo che l'uomo sia salvato anche per le proprie opere oltre all'opera di Cristo, non ha risposte a tanti interrogativi. Così è oltremodo saggio vedere, riconoscere e accettare la sovranità di Dio per la nostra vita terrena, affinché possiamo vivere con la massima serenità, fiducia e riconoscenza. Tre sole affermazioni della Scrittura possono procurare questi sentimenti. L'Eterno disse a Mosè: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io l'Eterno. Esodo 4.1.1. Squilla forse la tromba in una città, senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città, senza che l'Eterno ne sia l'autore? Amos 3.6. Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno viola i diritti di un uomo in presenza dell'Altissimo, quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede forse? Chi mai dice una cosa che si avveri, se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Antarpetì, Altissimo? Del che si rammarica la creatura vivente? Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo all'Eterno. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli, Lamentazioni 3.3.4.41. Anziché giudicare ingiuste le vie di Dio, è bene per noi prendere sul serio ciò che è scritto nel libro sulla sofferenza per eccellenza, cioè il libro di Giobbe. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: Dov è Dio il mio creatore che nella notte ispira canti di gioia che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più saggi degli uccelli del cielo? Giobbe 35.9.11. La riconoscenza verso Dio è la grande medicina per non giudicare ingiuste le vie di Dio. 2. L'amore di Dio. Per molto tempo sono rimasto profondamente stupito nel sentire alcuni che ritenevano ingiusto l'amore di Dio. Che potessero ritenere ingiusto il suo operato quando condanna, quando giudica, se veramente potevo anche comprenderlo, ma che oggetto di critiche fosse il suo amore, il mio perbenismo non lo permetteva. Io non lo avrei fatto. Inaspettatamente però mi accorsi di non essere migliore degli altri, e se alcuni preferibili a me giudicavano ingiustamente l'amore di Dio, io ero tentato a fare altrettanto. Il mio stupore aumentò quando non solo sentivo alcuni che condannavano l'amore di Dio, ma addirittura lessi nella Scrittura citazioni di un simile atteggiamento. Dato che è vecchio quanto l'uomo ritenere iniquo l'amore di Dio, e il diavolo prima ancora della creatura umana ne aveva una tale opinione, Gesù stesso lo fa presente mediante una parabola. Vi sono due comuni atteggiamenti sbagliati nel leggere una parabola: stabilire delle dottrine o ritenerla senza valore. Ma lo scopo di una parabola è insegnare dei principi morali. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata? Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio. O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi». Matteo 20.1.16. In una società dove il principio della parità sembra farla da padrone, un racconto del genere non può che suscitare una certa indignazione, e, in un certo senso, tale reazione è giusta. Inutile nasconderlo o voler sembrare dei giusti moralisti. La Scrittura stessa, infatti, mette in evidenza che Dio alla fine dei tempi premierà le persone in base al loro operato. Chi avrà portato più frutto sarà maggiormente premiato. Lo stesso regno dei cieli, presentato da Gesù, non sarà piatto, ma tanto, per citare una promessa, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12.3. Questa promessa implica che non tutti i redenti risplenderanno nello stesso modo. Del resto, secondo l'insegnamento del nuovo patto, alcuni figli di Dio saranno salvati come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3.1-2.15. L'indignazione naturale suscitata da questa parabola scaturisce appunto dall'atteggiamento del proprietario terriero nel pagare gli operai che hanno lavorato una sola ora, come quelli che hanno lavorato tutta la giornata. Pazienza, se si volesse alludere al comportamento di un uomo. Ma Gesù narra questo episodio come esempio per affermare che Dio, cioè il vero padrone, si comporterà nella stessa maniera con coloro che hanno creduto in Lui e per Lui avranno lavorato. Ancora una volta questa parabola mette in evidenza come sia importante acquisire una mentalità ebraica, giacché troppe volte si è pronti a puntare il dito accusatore su ciò che è scritto nella parola di Dio, solo per aver tratto conclusioni e formulato dottrine le quali, poiché estrapolate dal contesto culturale in cui sono calate, non corrispondono al pensiero di Dio. Una cosa grave già di per sé, e ancor di più perché troppo spesso proviene da credenti. Con questa parabola potrei dimostrare che Dio è ingiusto, e da un certo punto di vista nessuno potrebbe darmi torto, tanto più che in molte altre parti della Scrittura, come è stato detto, Dio premia di più chi più ha servito e lavorato. Matteo 25.21-23. Ecco perché un testo preso fuori dal contesto diventa un pretesto, come per il termine elezione, così caro ai riformati. È vero che la Scrittura parla di elezione dei credenti, ma anche da un superficiale esame si nota che tale termine è riferito agli effetti di chi ha posto fede in Cristo, mai alla chiamata alla salvezza. Infatti, per questo scambio di ruoli, sento spesso i riformati ammettere di non capire appieno l'elezione di Dio. Buio spirituale, dato da un errato approccio al pensiero ebraico. Con la parabola dei lavoratori delle diverse ore, Gesù ha voluto mettere in evidenza che tutti i salvati otterranno la beatitudine eterna, per il prezzo convenuto da Dio e cioè per mezzo della fede in Cristo. Non importa la mole o il tipo di lavoro svolto, per meritare la salvezza, il prezzo convenuto è un denaro, cioè Cristo, e nessuno può aggiungerci qualcosa. La parabola potrebbe terminare qui, ma ecco che nel racconto saltano fuori coloro i quali hanno lavorato di più. Parlano quindi le persone più brave e le più degne, che condannano e giudicano ingiusto l'operato del padrone. E, da un certo punto di vista, chi può dargli torto? Chi di noi darebbe lo stesso trattamento economico a chi ha lavorato di meno? Non ci deve sfuggire, però, che le persone più degne e virtuose non sono indignate per l'ingiustizia in sé, ma per l'amore mostrato dal padrone. Infatti, se l'ingiustizia fosse stata a loro favore, o si fosse limitata al maltrattamento degli altri lavoratori, non avrebbero detto niente. Ma poiché l'ingiustizia consisteva in un atto d'amore nei confronti dei meno degni, allora fanno la ramanzina al padrone. Chi non guarda con sdegno persone malvagie, o poco devote, quando trascorrono nel benessere i loro giorni, Giobbe 21.13, mentre persone pie e rigorose si dibattono in problemi senza fine. Chi non ha nel cuore un piccolo sdegno quando un ateo incallito vive fino a 90 anni, mentre un giovane impegnato nel regno di Dio muore a causa di un tumore? È vero, ma questa reazione è possibile perché si dimentica l'amore di Dio, il quale porta pazienza affinché le persone incredule si ravvedano. 2 Pietro 3.9. Il modo in cui Dio ama tanto noi quanto le altre persone non è sempre comprensibile e gradevole, per cui è saggio non ritenere ingiuste le vie di Dio, soprattutto quando queste si scontrano con la nostra cultura. Perciò, la parabola dei lavoratori delle diverse ore è proprio il messaggio rivolto alle persone virtuose e meritorie, affinché imparino a non ritenere ingiusti i metodi di Dio, ad aspettare fiduciosi le fine dei tempi. Quando ogni cosa sarà chiarita, o per dirla come l'Apostolo Paolo, quando conosceremo pienamente, come anche siamo stati perfettamente conosciuti. 1 Corinzi 13.12. Se poi Dio fosse anche ingiusto, come molti intellettuali sostengono e hanno sostenuto fino alla morte, rimane sempre da rispondere agli interrogativi di Dio. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? E il nostro occhio a non aver ancora imparato a mettere a fuoco ciò che vede. 3. I doni disuguali di Dio. La parabola dei talenti raccontata da Gesù ha per me un significato particolare perché ancora prima di avere avuto quell'esperienza con Cristo, la quale mi ha dato il diritto di diventare figlio di Dio per l'eternità, nel leggere questa parte del Vangelo già vi trovavo una delle più grandi ingiustizie. Però, mene è questa il movente che porta a Dio, nonostante la mia incomprensione, ritenevo Dio giusto, e il mio cuore diceva, Signore, sono io che non capisco. Leggiamo la parabola. E, mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque, un uomo nobile andò in un paese lontano, per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E, chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine, e disse loro, «Trafficate fino al mio a ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata, dicendo, «Non vogliamo che costui regni su di noi». Ora, quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi, ai quali aveva dato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse, «Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine». Ed egli disse, «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città». Venne poi il secondo dicendo, «Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine». Ed egli disse anche a costui, «Tu pure sii capo di 5 città». Venne poi un altro che disse, «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato». E suo signore gli disse, «Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse?» Disse poi ai presenti, «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Ed essi gli dissero, «Signore, egli ha 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza». Luca 19.1127. È facile comprendere perché questa parabola abbia suscitato indignazione in me come in altri. Ma vediamo le cose per ordine. I discepoli pensavano che il regno di Dio del quale tanto predicavano fosse imminente, e Gesù, sapendo che il suo ritorno per instaurare il suo regno era molto lontano, espose proprio questa parabola perché non fossero tentati a tirare i remi in barca, o non fossero, o meno, come dice più volte Paolo, impreparati alla sua venuta. La parabola ha lo scopo di invogliare ad essere attivi e zelanti per il regno di Dio, Ma dove sta il problema? Sta nel finale, quando l'uomo nobile che rappresenta Dio disse ai presenti di togliere la mina a chi non l'aveva fruttata e darla a chi ne aveva fruttato 10. Gli altri servitori stessi rimasero indignati per questa apparente ingiustizia. Ma l'uomo nobile fece gli orecchi da mercante, aggiungendo inoltre che a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. A questo punto vi sono solo due alternative: o Dio è ingiusto, oppure Gesù sta mettendo in evidenza una verità anche troppo manifesta e che dobbiamo comprendere. Vi era un uomo che soffriva ritenendo giusto se stesso, e Dio ingiusto era Giobbe. 34.5. Ma il suo amico Eliu gli rispose: «Se tu sei intelligente, ascolta questo, porgi orecchio alla voce delle mie parole. Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? Osi tu condannare il giusto, il potente?» 34.17. Se con nostro grande stupore questo mondo procede da milioni di anni, è perché regna un Dio giusto, perciò è fuori discussione ritenere Dio ingiusto. Rimane da comprendere il fatto che Dio toglie a chi non ha, per dare a chi già possiede. Entrando nella mentalità ebraica, dobbiamo fare lo sforzo di comprendere i verbi riferiti a Dio: dare, togliere, nutrire, vestire, eccetera. Quando leggiamo che Dio nutre gli uccelli del cielo, non pensiamo di certo che porga ai volatili la propria mano colma di cibo, ma che tutto si svolga nell'ordine naturale delle cose. Oppure, quando leggiamo che Dio riveste i gigli di sicuro, non pensiamo che faccia il sarto, ma che tutto si compia secondo natura. Perciò i verbi riferiti a Dio rivelano la sua sovranità in tutto. Così, il riferimento al dare a chi ha e togliere a chi non ha, dobbiamo vedere questi gesti nella quotidianità della nostra esistenza, e poiché quest'ultima è un riflesso di quella spirituale, una volta compresi i metodi di Dio per la vita terrena, siamo in grado di afferrare i piani di Dio anche per le cose spirituali. Questo è un principio stabilito da Gesù per penetrare la parola di Dio, quando disse: «Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti?» Giovanni 3.12. A tutti è stato dato alla nascita un talento, cioè dei doni e capacità spesse volte a noi sconosciute. Rimango stupefatto quando leggo di cosa siano in grado di fare persone senza braccia, senza gambe o cieche. Una ragazza del mio paese è nata senza braccia, ma mi è stato detto che con i piedi riesce a sostituire i movimenti normalmente svolti dagli arti mancanti. Sono capacità delle quali nasciamo già dotati, ma che non usiamo in condizioni normali. Esistono però abilità naturali, possedute da tutti, come la forza e la memoria. È risaputo che un arto non usato può perdere totalmente le sue potenzialità, come una memoria non utilizzata o non esercitata si atrofizza. Tutto questo avviene in base a una legge fondamentale. Ciò che lasciamo inerte, senza impiegarlo conformemente allo scopo cui è stato destinato, subisce un lento e inevitabile processo di degenerazione e di regressione. Stessa cosa nell'ordine spirituale. Ogni uomo alla nascita possiede il senso dell'eternità, Ecclesiaste 3.11. È stimolato o sensibilizzato dallo Spirito di Dio, Salmo 27.8. Però non tutti arrivano alla fine della loro esistenza con la stessa fede. Alcuni muoiono da increduli, altri da fervidi credenti. Perché? Perché durante la loro esistenza i primi hanno rifiutato, Matteo 23.37, ogni apertura verso ciò che è spirituale, oppure gli impegni della vita e l'inganno delle ricchezze, Matteo 3.22, hanno soffocato in loro i valori di Dio. Mentre per i secondi, la loro esistenza è stata caratterizzata da una ricerca seria e sincera di Dio e di ciò che è eterno. Perciò, chi più conosce di Dio più lo comprenderà, mentre chi non ha mantenuto o coltivato l'iniziale talento, cioè il bisogno di Dio, perde anche quel poco desiderio di Dio che aveva. E, forse ingiusto Dio, ma la parabola dei talenti è riferita in particolar modo ai credenti, che sono ancora più responsabili, perché, come disse Gesù, A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Luca 12.48. E, forse ingiusto anche questo? Forse il problema non è tanto l'apparente ingiustizia di Dio, ma la convinzione che la nostra moralità sia più giusta della sua. Non lo diciamo apertamente a causa di un vago rimprovero che proviamo interiormente, ma l'enorme fatica che accusiamo ad accettare le vie di Dio e l'atto ciclopico che ci occorre per sottometterci alla sua rivelazione manifestano la nostra riluttanza ad accettare che il nostro giudizio sia distorto e corrotto. È difficile che muoia la buona opinione che ci siamo fatti di noi stessi. Non ci resta che appropriarci della preghiera del salmista: Signore, fammi conoscere quanto sono fragile. SL 39.4. Infine, anche se Dio non fosse del tutto giusto, dovremmo ringraziarlo e adorarlo anche per questo. Perché se Gesù Cristo è giusto, colui che non ha commesso nessuna colpa è morto per noi ingiusti, è proprio grazie a questa morte ingiusta. Ma la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. 1 Corinzi 1.25. Inoltre, come dissero alcuni riformatori, una teologia che rinuncia al paradosso smarrisce se stessa e, quel che è peggio, smarrisce il Vangelo. 4. Lo sterminio delle nazioni. Prima di ogni altra riflessione, occorre essere obiettivi. La cultura del presente condiziona pesantemente ogni nostro giudizio morale. Noi siamo figli del nostro tempo. Quando erano di moda l'impiccagione o il rogo di persone in pubblico, essi costituivano spettacoli attraenti e spesso ricercati. In tempo di guerra si doveva uccidere, e se venivi meno a questo venivi fucilato o impiccato dai tuoi stessi connazionali. Tutto era lecito. Una regola questa non valida per altri tempi. Oggi è normale per le donne vestirsi in modo provocante. Può per i giovani andare in ferie e prenotare una camera sola. Oppure convivere senza essere sposati. Ma tutto questo è diventato normale poco alla volta. Mentre quando ero giovane tutto era scandalo. A regolare la nostra morale sembra essere il normale piuttosto che una giusta legge. Ho letto un libro autobiografico di una giovane donna della Cisgiordania, nel quale la parola normale è la più frequente. In quel contesto è normale, anche nel XXI secolo, per un madre assassinare le bambine neonate solo perché sono femmine. È normale che le ragazze vengano picchiate, maltrattate, strangolate, bruciate, brucise. Tutto è all'ordine del giorno. Mia madre, continua la ragazza, ha cercato di avvelenarmi per finire il lavoro di mio cognato, il quale l'ha bruciata viva, e per lei era normale, faceva parte del suo mondo. È così che cresciamo noi donne. Ti riempiono di botte. È normale. Ti danno fuoco. È normale. Ti strangolano. È normale. La mucca e le pecore, diceva mio padre, valgono più delle donne. Se non si vuol morire bisogna tacere, obbedire, strisciare, sposarsi vergini e fare dei figli maschi. Se fossi rimasta nel mio paese, questa sarebbe stata la mia vita. Le mie figlie sarebbero diventate come me, e le mie nipoti pure. Se fossi vissuta là sarei stata come mia madre, che ha soffocato le sue bambine appena nate. Forse anch'io l'avrei fatto. Forse anch'io avrei fatto bruciare mia figlia. Adesso mi sembra mostruoso, ma se fossi rimasta al mio paese, no. Quando ero all'ospedale, laggiù e stavo per morire, pensavo ancora che tutto quello che mi stava succedendo fosse normale. Nostra madre spesso veniva picchiata come noi. Qualche volta, quando le botte erano troppo forti, cercava di difenderci. Allora mio padre colpiva anche lei, la faceva rotolare per terra, le tirava i capelli. Ogni giorno rischiavamo tutte di morire. La morte poteva arrivare senza motivo di sorpresa, solo perché mio padre aveva deciso così, come mia madre decideva di soffocare le sue bambine appena nate. Una sola cosa non era normale. Un giorno senza botte non è un giorno normale. Swad bruciata viva, edizioni PM, settembre 2008. Ho riportato queste testimonianze per dimostrare che il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, La giustizia e l'ingiustizia sono elementi che vanno di moda e, per questo, dovremmo essere cauti e rispettosi nel giudicare l'ingiustizia di Dio, perché, mentre la giustizia di Dio è costante, la nostra giustizia muta con il tempo. Conosco persone che nel leggere l'Antico Testamento sono letteralmente scandalizzate dall'ordine di Dio di sterminare intere popolazioni. Per loro è una cosa mostruosa. Questa reazione scaturisce sia da una ragione culturale sia da un certo insegnamento intorno a Dio e a Gesù, ritenuti esseri esclusivamente pieni di amore. Innanzitutto occorre accettare che il Dio di amore rivelato nel Nuovo Testamento è lo stesso dell'Antico Testamento. Non vi sono due Dio. Il messaggio d'amore di Gesù non è più morale della legge dell'Antico Testamento. Infatti Gesù ha più volte dichiarato di non esprimere nulla di suo, ma di riferire sempre le parole del Padre. GV 8.26. Perché allora Dio ha ordinato di distruggere certe nazioni per il loro comportamento orrendo a lui intollerabile? Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni, non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti. Deuteronomio 18, 9-14 e ancora. Non avrai relazioni carnali con un uomo, come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa, né alcuna donna si accosti ad una bestia per accoppiarsi con essa. È una perversione ripugnante. Non vi contaminate con alcuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. Il paese è stato contaminato, perciò io lo punirò per la sua iniquità, e il paese vomiterà i suoi abitanti. Levitico 18.2-25. Ecco le pratiche di queste nazioni, disapprovate da Dio. A. Bruciavano i bambini vivi. B. Esercitavano la divinazione. C. Vi erano astrologi e coloro che predicevano il futuro. D. Vi erano maghi e negromanti. E. Vi era chi consultava gli spiriti. F. Si praticava l'omosessualità. G. Donne e uomini avevano relazioni sessuali con le bestie. Qualcuno potrebbe giustamente considerare che, in fondo, molte di queste pratiche sono ancora oggi in essere presso molte popolazioni. Questo è vero, ma evidentemente il male non ha raggiunto proporzioni tali per le quali Dio debba intervenire. Infatti, le popolazioni al tempo della conquista della terra promessa avevano raggiunto il culmine della loro iniquità, Genesi 15.16, e, come per il diluvio, Dio intervenne per purificare l'umanità. Chi non crede, l'ira di Dio rimane su di lui. Dio rivela la sua ira contro ogni ingiustizia degli uomini. L'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Gesù farà vendetta di coloro che non conoscono Dio. A Dio appartiene la vendetta e giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Verrà il giorno dell'ira di... In merito ricordiamo che in Apocalisse sono descritti i giudizi che Dio manderà sulla terra quando l'iniquità degli uomini già visibilmente in crescita vistosa sarà il culmine. Inoltre, va ricordato che il Nuovo Testamento, pur pervaso del messaggio d'amore da parte di Dio, non ne dimentica la giustizia, né esita a parlare della sua collera verso i peccatori. Una collera molto più grave. Citiamo alcuni versetti. GV 3:36. Ro 1:18. E F 5:6. 2 Te 1:8. App 6:17. Secondo la morale vigente, dove la pace sembra l'obiettivo più importante da ricercare e mantenere ad ogni costo, è normale che lo stermino delle nazioni avvenuto millenni di anni fa sia ritenuto una cosa ingiusta, perciò nulla di scandaloso in una tale reazione. Ma una cosa è provare una certa indignazione per un fattore culturale temporaneo, altra ritenere che si tratti di una decisione ingiusta. Del resto, in merito alla violenza e all'uccidere, uno Stato, anche al giorno d'oggi, ritiene giusto ricorrere alla violenza per reprimere altra violenza. Guardiamo ad esempio per televisione la polizia che usa i manganelli. come considererà giusto quando è opportuno uccidere, se viene invaso da potenze straniere. Ritenere la pena di morte una cosa spregevole è pura demagogia da farsi quando non si è coinvolti in prima persona, ma mi risulta che moltissime persone derubate o minacciate di morte, appena ne avevano la possibilità, hanno risposto in modo adeguato per difendere la propria vita e quella degli altri. Negli anni caldi del terrorismo, sondaggi attendibili hanno dichiarato che oltre il 60% degli italiani volevano la pena capitale. Nel triste periodo del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, Ugo La Malfa disse: «Siamo in stato di guerra e si deve rispondere con misure eccezionali, anche con la pena di morte». Per far comprendere come può essere il nostro atteggiamento nei confronti di quelle che noi riteniamo le ingiustizie di Dio, prendiamo un esempio che coinvolge tutti. Da bambini giudichiamo ingiuste le punizioni dei nostri genitori. Ma divenuti genitori a nostra volta ci rendiamo conto che in fondo i nostri genitori avevano le loro ragioni. Con una differenza però, che noi sbagliamo, i genitori non sono perfetti. Ma il Dio dei cristiani è chiamato il giusto. E tale è. Sta a noi diventare adulti. 5. L.A. punizione eterna. La punizione eterna è uno degli argomenti che tocca molto la coscienza delle persone, sia incredule, sia credenti. Davanti a una persona, la quale commetta volontariamente certe trasgressioni, come violentare, rubare e uccidere il prossimo, si ritiene giusta una condanna proporzionata alla colpa, ma che debba soffrire per sempre, non siamo in grado neanche di pensarlo. Se poi la punizione fosse senza fine, cioè eterna, non solo avremmo delle difficoltà ad accettarlo, ma ci ribelleremmo. Questo per tre motivi. 1. Perché, limitati come siamo, non siamo in grado di comprendere l'eternità. 2. Perché abbiamo una moralità umana. 3. Perché è inconcepibile per noi che un Dio buono riservi per gli increduli una condanna eterna. Perciò, nell'affrontare l'argomento di una sofferenza eterna, partiamo già con dei presupposti che non ci aiutano ad essere obiettivi. Ma non per questo dobbiamo darci per vinti. La parola di Dio in merito a questo argomento è di una chiarezza disarmante. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Matteo 25.46. Il testo di Matteo non lascia dubbi. Qualsiasi interpretazione noi diamo alle parole pene eterne e vita eterna. I posti e le situazioni sono due, mentre il periodo di tempo è sempre quello. Non tutti i morti vanno nello stesso luogo, questo è evidente. Lo stesso Pietro riconosce due posti, quando scrive nella sua prima lettera: «Se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» 1 Pietro 4.18. Però, se accettiamo che la vita dei beati o dei salvati sia eterna, cioè senza fine, dobbiamo pure accettare che anche la punizione sia eterna, cioè non finirà mai. La durata per i salvati è uguale a quella dei perduti. Nonostante questo, per negare l'esistenza di un luogo di tormenti, alcuni sostengono che la parola inferno non si trova nella Bibbia, e ciò è vero. Infatti, in greco a questo termine è attribuito il significato letterale di più basso, EF 4.9. E per questo, nella Vulgata, la traduzione latina della Bibbia è tradotto con inferior, da cui è derivata la parola italiana inferno. Però, sia Gesù sia gli apostoli hanno usato altre espressioni per indicare questo luogo, espressioni che non annunciano nulla di buono come punizione eterna, fiamme eterne, catene eterne, tenebre, condanna, pena, geenna. Oltre a definirlo un luogo diverso, pieno di dolori, lo riconoscono anche eterno. Quali caratteristiche precise può avere questo luogo di tormenti? Alla luce della rivelazione di Dio, il luogo sarà A. 2 Te 1, 6 a 9, B. Lu 16, 19 a 31, C. Lu 16 e 26, DMT 10 e 26, i perduti vedranno i redenti. I perduti sapranno che non potranno cambiare situazione. Si soffrirà fisicamente con il corpo della resurrezione. si proverà un rimorso eterno per aver perduto la possibilità di essere salvati. Proprio perché si è compreso che i perduti soffriranno per l'eternità, la domanda... Per rispondere a questa antica domanda, prima occorre chiarire due aspetti. 1. È falsa l'opinione che Dio mandi all'inferno le persone solo perché non vogliono credere in Lui. Questo pensiero distorce totalmente il messaggio di Dio. Dio non manda e non vuole mandare nessuno in un luogo di perdizione. Anzi, Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ezechiele 33.11, 1 Timoteo 2.4. E, se l'uomo sarà condannato, è perché avrà scelto, preferito, o amato di più ciò che è male, piuttosto che il volere di Dio. L'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, riassume il tremendo messaggio della punizione eterna con queste parole. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno preferito o amato le tenebre più della luce. Giovanni 3:19. Da notare che i perduti, secondo Giovanni, non saranno necessariamente delle persone irreligiose o comunque contrarie alla rivelazione di Dio. Queste persone avranno scelto o amato le cose di Dio, ma le avranno collocate al secondo posto rispetto al volere di Cristo, Matteo 7.2123. Altra verità, Dio non è un essere permaloso che manda in castigo la gente solo perché non vuole credere in Lui. E invece l'uomo a nascere perduto, lontano da Dio e per questo già incamminato verso la perdizione eterna senza alcuna speranza. E Dio a prendere l'iniziativa, intervenendo per offrirgli la possibilità di salvarsi. Se l'uomo crede, è salvato, scampa dal giudizio di Dio, non viene condannato. Se non crede in Cristo, non è Dio a mandarlo all'inferno, ma è lui stesso a scegliere di rimanere perduto. Giovanni 3.36. E come un uomo trascinato violentemente su di una barca, verso una cascata mortale, se afferra l'aiuto salvifico offertogli, scamperà, diversamente, si condanna da solo. 2. Anche se a molti può sembrare assurdo, le persone andranno in un luogo di tormento, perché Dio le ama e lo dimostra proprio rispettandone la libertà. Sì, Dio ha creato l'uomo libero, di conseguenza non ne viola la libertà. Se Dio obbligasse l'uomo ad andare in cielo, compirebbe un atto di violenza, ma soprattutto mancherebbe di amore. Si può obbligare una persona a compiere un'azione, ma non la si potrà mai costringere ad amare. Poiché è sovrano, oggi Dio impone alcune cose nella vita di un essere umano come il sesso, il colore della pelle, il luogo di nascita, e tutto questo per il nostro bene. Ma non può imporre a nessuno di amarlo e quindi di desiderare di andare in cielo con lui. Se facesse questo compierebbe il più grande atto di ingiustizia. Inoltre è una manifestazione dell'amore di Dio non costringere l'uomo alla sua presenza con la forza. Molti non potrebbero sopportarla. Sarebbe amore obbligare uno scarafaggio a stare alla luce? Per sua natura egli cercherà sempre le tenebre. Così l'uomo, il quale benché malvagio riesce ancora a dare buoni doni ai suoi figli, Matteo 7.11, nell'aldilà esprimerà tutta la sua corruzione, tutta la sua malvagità, tutta la sua ripugnanza verso il bene e allora cercherà un luogo dove fuggire dalla presenza della santità di Dio. Se il peccatore in questa vita ha bisogno di nascondersi o di allontanarsi dalla presenza della santità di Dio, come nel caso di Pietro, di Isaia, Lu 5:8 e Is 6:5, e di tante altre persone, come sarà il sentimento di coloro che dopo la morte mostreranno la loro totale corruzione? Io non riesco a immaginarlo, ma dovrà essere veramente qualcosa di terrificante. Piuttosto che sopportare la santità, la giustizia e l'amore di Dio, fuggiranno nelle tenebre più oscure. E là sarà la loro eterna dimora. Oltre al dolore di essere lontano da colui che è la vita, la pace e la gioia, chi è nelle sofferenze eterne avrà un eterno rimorso nel comprendere di trovarsi in quel luogo, per un atto d'amore di Dio, quell'amore che lui ha sempre rifiutato, condannato e disprezzato. Dio è amore e questa caratteristica lo contraddistingue in questa vita e nell'eternità. Un simile Dio è forse ingiusto? Forse giudichiamo ingiusto anche l'amore di Dio? Se un uomo obbligasse una donna ad amarlo, non riceverebbe forse il disprezzo da tutti? Dobbiamo essere riconoscenti che abbiamo a che fare con un Dio giusto, santo, pieno d'amore. La nostra parziale comprensione attuale dei suoi piani eterni è una ragione in più per amarlo. Noi amiamo perché Egli per primo amò noi. 1 GV 4.19 aprile 2011 Ellero.